Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Un nuovo amore, nuove persone, ma perché no? Non ha importanza né dove vai né con chi sei. Lascia perdere i commenti della gente, tu vai dritto per la tua strada. Non pensare alle distanze, tira dritto, testa alta contro tutti. La strada è lì, è sempre lì, ad indicarti la via. Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Nuove abitudini da cui dipendere, ma perché no? Chiudi gli occhi e sei a fondo, sei seduto. Lascia perdere i commenti della gente, tu hai vinto per la tua strada. Lascia perdere i commenti della gente, tu fai dritto per la tua strada. Pensare le distanze, tira dritto, testa alta con tutti. La strada è sempre lì, ad indicarti la via. Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Non è quel che dici, non è quel che dici, ma quello che fai. Non è quel che dici, ma quello che fai.